Ecco, cari amici, buonasera a tutti quanti. Dopo tante cazzate, è arrivato il momento di Web Radio Luzzi, è arrivato il momento di ricontattare l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa per parlare della situazione politica, vista la forte crisi. Perché noi non possiamo soltanto parlare di cazzate, penso proprio di no. Parola chiusa! Sì, vabbè, mi sono grippato come alla Parodi l'altro giorno al TG. Vista la crisi forte del nostro paese, quale persona meglio di un onorevole per dirci la sua? Come possiamo uscire da questo periodo di cacca? Pronto! Ci sente, ministro? Ministro? È un piacere di sentirvi voi di Web Radio Puzzi. Un po' meno adorarvi, visto che puzzate, questo diciamolo pure. Veramente, glielo ripeto, per la 300ª volta, l'anno scorso gli abbiamo detto tante volte, ci chiamiamo Web Radio Luzzi, non Radio Puzzi. Attenti! Attenti! Forza! Ormai comandiamo noi! Veramente, il governo di cui lei faceva parte non c'è più, cioè non è che... Ma che mischia dici? Sempre noi siamo, abbiamo dovuto fare un po' di risparmio. In che senso, scusi? Volevamo dare un segno a tutta l'Europa e siamo passati da due mondi a un solo monte. Ma queste sono sciocchevolezze. Comunque, volevo salutare un vero uomo che è lì tra voi, ovvero Micci di Bagnini. Scusate, ho la raucedine, non si nota. Uno che ne capisce di infrastrutture e di ponte pure. Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie, sono contento e felice. Non mi ringrazi, ringraziare non è da uomo. Mi mandi a fanculo piuttosto. E mi a fanculo. Ecco, questo è un uomo vero. Tu perché tra uomini veri si fa così, non ci si dà la mano, ci si prende a testate. Ti chiamo la scuda già. Sputacciate, che sono queste smangerie? Voi siete Web Radio Puzzi, che cazzo dici? E si prendere pure! E non rompere la minchia! Scusate le mie origini siciliane. Ma ritornando a quello che vi dicevo prima, tutti parlano di crisi, ma dove minchia è la crisi? Problemi del nostro paese sono altri. Tipo... I danni che ci stanno facendo gli uomini, i centri di bellezza. Cioè, in che senso, scusi? Che minchia mi rappresentano tutti questi uomini, tutti depilati, che si abbronzano sul lettino solare. Questo è un ultraggio all'umanità. Beh, ma sinceramente non c'è niente di male, voglio dire, se uno vuole... Che minchia mi rappresentano? Il vero uomo c'ha le ascelle pezzate lunghe 2 metri. Il vero uomo deve avere la barba che funge anche da carta vetrata all'occorrenza. E poi, con minchia mi rappresenta sto cazzo di telefono, questa suoneria della minchia che suona a cazzo. Che mi cammini, che la borsetta c'è colla per cimento telefono. Oh, e soprattutto, un uomo non può guidare una smart. È un'offesa all'umanità, Cristo. Una smart. L'uomo può guidare solo 2 tipi di macchine. Quali? Il trattore e il cingolato. Signora... No, scusi, signor La Russa. Nella tasca sua smartphone consegnata. Che ne dici di rilassarsi nel nostro centro benessere? Fanno un'eccellenza fantastica. Qui c'è il nuovo estetista Hugo, che è molto breve rispetto a quello acquistato l'ultima volta. Onorevole, dove si trova? Cosa fa? Non sento Radio Puzzi, non sento più un cazzo. Inoltre, andate a lavarvi, comprate un cellulare cingolato. Pronto, pronto, non sento la minchia. È caduta la linea. È caduta la linea, cari amici, mi è caduta anche la gola di La Russa. Io direi che per oggi La Russa, vabbè. Arrivederci alla prossima puntata.